Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi care amiche e cari amici, come ogni giovedì io vi invito a Mangia con me, è il primo reality radiofonico per imparare a mangiare bene, per vivere meglio. C'è posto, accomodatevi e quando siete belli comodi chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24 perché per parlare con noi, per avere indicazioni, consigli, suggerimenti, per confrontarvi con i nostri esperti che sono già in linea, i nostri coach, gli allenatori del nostro nuovo stile alimentare. Buongiorno al dottor Ongaro. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Anche oggi parleremo di un argomento molto interessante, soprattutto in vista delle feste natalizie, che riguarda molte persone. E quindi niente, chiamateci, entrate in contatto con noi, avrete dei consigli sicuramente utili. E in linea abbiamo anche il professor Stefano Tirelli. Buongiorno professore, docente di tecniche complementari sportive. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovati, sì, perché noi siamo freschi di una puntata martedì scorso. Abbiamo È una bella puntata in cui abbiamo parlato di cose che poi ritroveremo anche rispetto all'ospite che avremo oggi e che quindi è il concorrente che seguiremo sempre con grande passione e grande energia. Perfetto, allora seguiteci anche, mi piacete molto, dottor Ongaro e professor Tirelli. Stiamo imparando, Nicoletta, piano piano. Ma no, dai! Ma tra l'altro la cosa bella è che anche col dottor Ongaro, cioè siamo un bel team, quindi ci dovrete anche invitare lì insieme prima o poi. Basta che il dottor Ongaro arrivi, perché lui è un po' pigretto a venire sono fino a Milano. Sono io quello provinciale, periferico, devo venire a Milano. Va bene, adesso basta così, Allora, seguiteci al nostro numero verde 800 24 00 24 su Facebook o su Twitter. Insomma, stiamo vicini, ma è tempo di conoscere il nostro settimo partecipante. Buongiorno a tutti, sono Fabio, ho 25 anni e vivo in provincia di Biella. Mi piace fare tante cose nella vita, tra cui mangiare. Nel mangiare appunto non riesco a resistere ai dolci, che sono il mio vizio. Se dovessi raccontarmi attraverso le mie passioni, vi posso dire che mi piace molto correre e mi piace anche molto nuotare. Posso anche dare una colonna sonora alle mie passioni e Questa è la mia vita di Luciano Ligabue è un'ottima colonna sonora. Io non so cucinare, ma per fortuna per me mia mamma è molto brava. Il suo piatto forte è una torta di nocciole tostate, molto molto morbida e molto molto buona. Molte volte però mi accorgo che mangio troppo velocemente, perché quando vedo il tavolo e il mangiare non riesco assolutamente a contenermi. Mi piacerebbe mangiare con voi, perché vorrei realizzare questo mio piccolo sogno e cercare di apprezzarmi di più. Negli anni sono sempre stato leggermente sovrappeso, ma ho sempre avuto tanta voglia di dimagrire un pochino, con pochi risultati purtroppo. Fabio, certo che ti invitiamo a mangiare con me, però tu porta la torta di nocciole. Va bene. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta. Benvenuto. Senti Fabio, a proposito della tua passione per il dolce, raccontaci un po' da quando ti sei svegliato stamattina, quanta dolcezza ti sei già regalato? È un invito naturalmente che rivolgo anche alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando. Io, Fabio, se sei d'accordo, inizierei proprio a visualizzarlo, questo dolce, e quindi a contare i cucchiaini di zucchero. Certamente, guarda. Io questa mattina mi sono regalato, ovviamente come tutte le mattine, tranquillità e ovviamente dolcezza, però sono già entrato anche nell'ottica mangia con me, quindi stamattina mi sono fatto un bel piatto di cornflakes col latte e caffè e una bella spremuta di arancia rossa. Quindi ti sei portato un pochino avanti. Assolutamente sì. Senti, ma i cucchiaini di zucchero li aggiungi o no? Guarda, io sono abbastanza attento a quello e di solito metto sempre del miele, quindi mi salvo da quel lato lì. L'unica cosa a cui riesco tranquillamente a rinunciare. 800 24 00 24, puntata dedicata a chi come Fabio, e devo aggiungere come me, ha una grande passione per il dolce. Dottor Ongaro, ho cercato di quantificare i cucchiaini. Io so che lei non aggiunge al caffè neanche un granello di zucchero, ma le passo subito la parola. No, sì, io personalmente non aggiungo neanche un granello. Ci sono pareri molto discordanti su quanto è lo zucchero, diciamo, consentito in un'alimentazione quotidiana, e credo che dipenda moltissimo dal resto dell'alimentazione. Cioè, non è che il singolo alimento acquisisce un ruolo positivo o negativo di per sé, ma lo acquisisce nel contesto e nel rapporto con gli altri alimenti. Dunque, io sono del parere che l'organismo non ha bisogno di zucchero, e credo che la biochimica ce lo confermi, in quanto lo zucchero di cui ha bisogno l'organismo se lo produce da sé a partire da alcuni processi biochimici del fegato. Quindi lo zucchero dovrebbe essere visto come qualcosa che rientra tra le eccezioni, che non significa che non si può mangiare mai, ma sicuramente è una cosa che è in più rispetto agli altri alimenti da cui il nostro organismo si ricava tutto ciò di cui ha bisogno. Professor Tirelli, la medicina cinese ha una spiegazione per la voglia di dolce? Anzi, proprio in una puntata di qualche giorno fa abbiamo capito che la preferenza per un sapore, unita ad altri indicatori, costituzione fisica, carattere, stagione, è un indizio importante per individuare la nostra tipologia. Sì, in questo caso il sapore dolce nella medicina cinese è correlato con funzioni o disfunzioni dello stomaco, della milza, del pancreas, il che non vuol dire assolutamente che ci siano delle patologie in atto, ma vuol dire che quel tipo di funzione organica ha bisogno di una sorta di carica in più, che spesso, come diceva il dottor Ongaro, è più, se vogliamo, artificiale che reale. È più il sapore dell'elemento che ci serve quanto l'elemento stesso. Allora, in questo caso abbiamo proprio stomaco, milza e pancreas anche come meridiani energetici da dover tonificare, migliorare. E in che modo? Lo vedremo anche proprio dopo, quando suggeriremo al nostro gentilissimo concorrente la metodologia di allenamento specifica. Fabio, quindi tu sei già corri e nuoti, ma il professor Tirelli ha già un progettino su di te. Volevo chiederti, Fabio, ma la voglia di dolce è costante nell'arco della giornata, o ci sono momenti della giornata in cui proprio hai bisogno di mangiare qualche cosa di dolce, più alla mattina, al pomeriggio, dopo cena? Perché anche, no, il momento in cui insorge la voglia, dottor Ongaro, mi aiuti lei, può dare qualche indicazione. Fabio. Guarda, la voglia è assolutamente costante, da quando ci si alza al mattino a quando si va a dormire. Certamente magari metà mattinata e metà pomeriggio qualche volta ti devo dire anche che il fisico un pochettino forse... Vero? Sembra che chiami. Ma il dottor Ongaro cosa dice? Noi diciamo che il fisico chiama, che dice dolce, dolce, dolce. Nicoletta, noi diciamo, l'abbiamo detto molte volte, sì, questo è vero che il fisico chiama, non c'è ombra di dubbio, ma il fisico è portato a chiamare il dolce in particolare quando abbiamo un'alimentazione che propende molto per il dolce. E lo stesso, devo dire, accade con il sale, cioè sono due estremi del gusto a cui noi ci abituiamo molto rapidamente. Perché? Perché fondamentalmente sono dei gusti piuttosto rari in natura, e quindi il nostro organismo in un mondo naturale è portato a ricercarli con molta intensità. Poi ovviamente oggi sono invece facilmente reperibili ovunque, e quindi tendiamo a diventarne leggermente delle vittime, per cui non c'è dubbio che c'è un richiamo sul gusto dolce, è un richiamo che però dobbiamo dominare e far rientrare, ripeto, nelle eccezioni piuttosto che nella quotidianità. Quale libro di dieta stai cercando? Non lo so, qualcosa con un titolo del genere: chi vuol perdere tutti i chili di troppo senza fare un bel niente? Che ne dici di quello? Ti prego, no. Credevo facessi sul serio. Ed è vero, non appena avrò finito questo dannato coso al caramello e nocciole. Due caffè, per favore. Sì, subito. Che dolce visione, le mie preferite. Non dirlo a me. Sarà così terribile se ce ne dividiamo una. Scusi, potrei avere una di quelle belle ciambelle e un coltello? Ecco a lei. Chiunque sia stato ad inventarle era un vero genio. Dottor Ungaro, lo zucchero non è certo solo dentro la zuccheriera, ci sono però anche alternative allo zucchero che hanno fama di essere, non so se dire meno dannoso o più salutari, azzardo. Penso allo zucchero di canna, al miele, allo sciroppo d'acero, alla melassa. Ci sono degli zuccheri migliori di altri o una volta ingeriti si comportano tutti allo stesso modo? Il nostro Fabio ha detto, io ad esempio uso il miele. Ma allora, il miele secondo me va oggettivamente messo in una categoria un po' a sé stante, perché è un prodotto naturale che noi assumiamo nella sua forma naturale, quindi ha ovviamente anche delle proprietà. Certo è che quasi tutti questi, poi ne facciamo due piccole eccezioni, ma quasi tutti questi che abbiamo menzionato, alla fine sul piano metabolico dentro l'organismo suscitano lo stesso tipo di risposta. Purtroppo anche il miele suscita una risposta analoga allo zucchero in termini di innalzamento della glicemia, di produzione di insulina, eccetera. Fa una piccola eccezione il fruttosio, che però ha una sua logica semplicemente quando è utilizzato all'interno della frutta, cioè nella sua forma naturale. Quando invece viene usato come zucchero non dà particolari benefici, perché in realtà crea una situazione molto particolare tra glicemia e rilascio di insulina che alla lunga non è favorevole. E un'eccezione a questo potrebbe essere la stevia, che è una forma di dolcificante naturale che va adesso molto di moda e che, stando agli studi più recenti che hanno anche permesso, diciamo, la sua entrata in mercato in Europa, sembrerebbe essere molto stabile e non dà una risposta metabolico-glicemica, ma soltanto appunto un'azione sulle papille gustative, è molto più dolce, diciamo, dà un'azione molto più dolce dello zucchero stesso e quindi potrebbe essere un'alternativa. Io da parte mia dico che la cosa migliore è abituarsi ha un sapore meno dolce nella vita quotidiana, godendosi le eccezioni, tipo la torta della mamma, come stava dicendo Fabio prima, quando è il caso di godersela, ma imparare a ridurre il carico glicemico complessivo dell'alimentazione, lavorando sia su una riduzione degli zuccheri semplici che su una sostituzione dei cereali raffinati con i cereali integrali di cui abbiamo parlato tante volte. Fabio, te la senti? Certamente, certamente ci provo volentieri. Professor Tirelli, ma lei ci può dare una mano? La medicina cinese, individuando il sapore dolce, può in qualche modo suggerire anche delle terapie, dei massaggi, delle digitopressioni per aiutare una persona che è molto orientata al sapore dolce a tenerlo un po' sotto controllo? Sì, in questo caso, come sempre, no? Nella medicina cinese c'è un aspetto di osservazione clinica che però si rifà anche a un discorso emozionale. Spesso le persone che hanno questa attitudine, questa ricerca al dolce, sono anche persone che ricercano sempre un ordine, una certa razionalità, o hanno bisogno di mettere ordine nella propria vita e hanno in questo senso proprio necessità di regolare alcune disfunzioni. In questo caso, quali sono i punti da trattare? Ce ne sono tre molto importanti. Uno è situato in un posto che a definirlo anatomicamente è difficilissimo, è sull'epifisi distale del primo metatarso, ma in realtà dov'è? È su quel, chiamiamolo, nodo che sentiamo tra l'alluce e il resto del piede, quindi quando ci sono spesso quelle situazioni in cui si vedono alluci, quindi il primo dito del nostro piede, molto pronunciato, una sorta di gobba nell'articolazione, ecco, sì. Quello è un punto, è il punto Milza 3, che va a regolarizzare, aiuta a regolarizzare le funzioni della glicemia, del rapporto insulina-glicemia dell'organismo, è fondamentale. Altri due punti importanti sono... Quindi situati... a Fabio possiamo dire afferra l'alluce. Fabio, dovresti mandarci le foto dei due alluci, che così poi, quando viene la voglia di dolce, si massaggia l'alluce, professor Tirelli? Sì, poi metteremo sul sito una bellissima foto di un bellissimo alluce, quindi chiunque fosse appassionato di alluci, ecco, ne vedrà uno bellissimo. Perché allora... sarà il suo, professore? No, il mio no, è il mio top secret, cioè ci sono i diritti d'autore, non posso. Invece un altro bel punto è sul ginocchio, io immagino di appoggiare la mia mano sul mio ginocchio, quindi per esempio mano sinistra sul ginocchio sinistro, sì. E a lato dove ho il quinto dito, il mignolo, devo massaggiare quella zona, perché in quella zona ci sono due punti, quindi sopra la rotula, ci sono due punti, il punto 33 e il punto 34 dello stomaco, sono punti utilissimi per le funzioni digestive dello stomaco, perché come vedremo nella parte di preparazione atletica per Fabio, ci sarà necessità di alleggerire il carico dello stomaco e quindi questi due punti influenzano positivamente la funzione di digestione dello stomaco. Dottor Ongaro, ma proprio sugli zuccheri, sullo zucchero che vediamo, su quello che sentiamo a livello di sapore, di gusto e anche su quello nascosto che consumiamo senza averne la consapevolezza e senza neppure avvertirne il sapore, vogliamo proprio dedicare, il nostro quizzettone. Dottor Ongaro. Sì, allora diciamo velocemente che il problema è proprio questo, cioè è il carico complessivo di zucchero che ho nell'alimentazione quotidiana. Lo zucchero non c'è soltanto quello che io assumo, ma c'è anche in cibi insospettabili, dal ketchup, alcuni tipi di pane, alcuni tipi di salmone affumicato, la senape, quindi in tantissimi prodotti lo zucchero è contenuto all'interno, dunque diventa difficile capire quanto zucchero sto consumando nella giornata e tra l'altro pochi sanno quant'è lo zucchero che diciamo consentito, permesso, e proprio su questo potremmo fare il quiz di oggi, cioè chiedere qual è la percentuale massima permessa di zuccheri, 10% delle calorie totali, 30% delle calorie totali o 45% delle calorie totali, pensando anche che a questi zuccheri poi si vanno a sommare altre forme di zuccheri come i cereali raffinati, quindi il pane, la pasta, eccetera, eccetera, e credo che oggi insomma ci troviamo di fronte a una tendenza ad un'alimentazione molto ricca di zuccheri un po' dappertutto, non soltanto negli Stati Uniti, ma purtroppo anche in molti paesi europei. Quindi, qual è la percentuale massima permessa di zuccheri nel conteggio totale? Zuccheri che vediamo, che non vediamo, che sentiamo, complessiva, 10% delle calorie totali, 30 o 45? Oggi ho pensato di abbinare un altro libro della nostra libreria di Essere Benessere, un libro che ho letto da pochi giorni, si intitola Piccola guida per persone intelligenti che non sanno di essere, di Beatrice Milletre, che è una psicologa, neurobiologa specializzata proprio in funzionamento del cervello e specializzata in neuroscienze. Perché? Perché ci stiamo rendendo conto che per stare bene dobbiamo fare delle scelte intelligenti, scegliere quello che ci fa stare bene, e quindi ho pensato di proporvi questo libretto molto agile, divertente, ricco di spunti e di suggerimenti per le persone intelligenti che non sanno di esserlo. 800 24 00 24, aspetto le vostre risposte, domandina molto semplice. Grandi gli alti e bassi, Andrea. Eccomi Nicoletta, buongiorno. Ma quanto mi piacete. Se, questa canzone, parla da sola. Caro Fabio, gli alti e bassi ti dedicano a Spoonful of Sugar, basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tratta dal nostro album Medley. Certo, lo zucchero ci aiuta a mandare giù la pillola, nella vita è importante, ci dà energia, ma come diceva giustamente il dottor Ongaro, bisogna stare attenti a non esagerare con i dolci, ne basta giusto un poco. Quindi non dimenticarti di fare sport, seguire i consigli degli esperti di Mangia con me e solo di tanto in tanto concederti quel poco di zucchero per realizzare così il tuo piccolo sogno. Ma quanto sono saggi gli alti e bassi? Andrea, ma tu quanto zucchero aggiungi? Ma io devo dire la verità, adesso ci sto molto più attento, da quando seguo Mangia con me, ho conosciuto il dottor Ongaro, no ma veramente. Siamo diventati un tormentone, dottor Ongaro. È vero, perché io noto che anche dei miei amici ormai quando mangiamo insieme hanno quasi, mangiano un po' di nascosto, mi dicono sai non mangio la verdura oggi ma l'ho già mangiata oggi a pranzo, perché ecco. Temono che io riferisca al dottor Ongaro. Grazie. Poi noi cantanti non possiamo fare uso del caffè, per esempio, no? Il dottor Fussi ci ha vietato il caffè, Io nel caffè ci mettevo 2 bustine di zucchero. Rinunciando al caffè, automaticamente rinuncio anche allo zucchero. Voilà. Grazie ad Andrea. Grazie. Un abbraccio a tutti gli alti e bassi. Dottor Ongaro, ma che programma ha pensato per Fabio? Il caso lo stiamo vedendo, suscita molto interesse perché sono in tanti, siamo in tanti ad amare i dolci. Partiamo dalla parola chiave che ci dà già qualche indicazione sul percorso che Fabio dovrà intraprendere. Ma secondo me la parola chiave potrebbe essere carburante, perché Fabio è giovane, ha 25 anni e quindi ha molte attività da svolgere nella vita quotidiana, tra l'altro corre, nuota, ha da perdere qualche chiletto ma non tantissimi, l'importante è dargli carburante ma dargli quello giusto, e credo che la descrizione, il riassuntino che ha fatto Andrea fosse perfetto, cioè di dire va benissimo anche l'utilizzo di cose dolci, nelle occasioni particolari, quando sua mamma gli prepara la torta preferita, però è importante che nella giornata quotidiana, nella vita quotidiana, il carburante sia quello giusto, e quindi cercheremo di sostituirglielo in modo tale da garantirgli energia, forza, ma anche la possibilità di perdere qualche chilo, visto che è uno dei suoi desideri e obiettivi. Fabio, sei ancora con noi? Assolutamente sì. Non molli. Adesso no, vediamo se molli con il programma che il professor Tirelli ha pensato per te, perché gli zuccheri si possono smaltire. Fabio è già sportivo, pratica nuoto, corsa, ma professor Tirelli, forse, anzi, si dice così, che cosa può aggiungere? Magari per rendere il suo impegno sportivo più efficace. Sì, a proposito di carburante, bisogna appunto consumare in questo caso più carburante in modo da aiutare l'organismo a togliere quei chili in eccesso di cui parlava Fabio. Io direi di aggiungere degli skip dinamici, che sono dei movimenti ritmici molto veloci utilizzati molto in atletica, laddove in quel momento Fabio fa corsa, quindi alternare la sua corsa con questi skip, che sono praticamente portare le ginocchia per esempio verso il petto in modo molto veloce e frequente per una 20 di metri, oppure altri tipi di skip che poi vedremo sempre sul sito di Mangia con me, sul sito web. E mentre nel caso del nuoto bisognerà aggiungere magari un utilizzo di tavoletta per implementare ancor più quella che è l'incremento della forza. In questo caso la forza, come sappiamo, è data da un fattore, cioè quello muscolare di una massa magra e quello di una massa grassa. Noi dobbiamo togliere, per quanto possibile, una parte di quella massa grassa con una frequenza maggiore e con uno sforzo maggiore rispetto a quello che già Fabio sta facendo molto bene nella corsa e nel nuoto. Fabio, hai ricevuto? Eccoci. Assolutamente sì, ho capito tutto quanto. Magari ho anche capito perché con la tavoletta quando vado a nuotare faccio mezza vasca e poi sono morto. Perché? E quindi molto probabilmente con le indicazioni del professor Tirelli farai vasche con la tavoletta. Sicuramente sì. Dottor Ongaro, mi stanno chiedendo tanti ascoltatori al nostro numero 349-238-6666, come la mettiamo con la frutta? La frutta contiene degli zuccheri, perché non ne parlate? Vicino ai pasti, dopo i pasti, a metà spuntino, anche la frutta in grassa, non è detto sempre che faccia bene. Dottor Ongaro, è vero che la frutta contiene zuccheri, ma contiene degli zuccheri più amici, diciamo così. Ma allora, senza dubbio la frutta contiene zuccheri, contiene fruttosio, ne contiene anche in quantità abbastanza elevate, soprattutto certi tipi di frutta, però c'è da dire che la frutta contiene anche la fibra, oltre a tutte le vitamine, i fitonutrienti, gli antiossidanti, eccetera. Quando lo zucchero è legato alla fibra, quindi quando mangiamo frutta nella sua forma naturale, l'assorbimento di questo zucchero, in questo caso del fruttosio, è molto più lento di quello che è, per esempio, in non lo so, un succo di frutta, per dire. Quindi già soltanto il fatto di creare un succo, pur partendo dallo stesso ingrediente, togliendo la fibra, dà un effetto completamente diverso sulla glicemia. Non dimentichiamoci che non è soltanto la quantità di zuccheri che ha diciamo un significato sul metabolismo, ma è anche la velocità con cui vengono assorbiti, che è dalla quale dipende la velocità con cui il pancreas è costretto a produrre insulina. Quindi sicuramente la frutta non è come la verdura, non va mangiata all'infinito, va regolamentata, perché anche solo mangiando frutta si rischia di superare quel famoso limite di cui stiamo parlando nel nostro quiz, vedremo se qualcuno azzecca la risposta giusta. Anche solo con la frutta è possibile superare quel 10-12%. Si fa in fretta. Sì, si fa in fretta ad arrivare anche al 30% delle calorie totali data dagli zuccheri, quindi... Sarà quella giusta, sarà quella sbagliata, ma Maria da Sondrio farsi la risposta. Buongiorno Maria. Buongiorno. Io direi la prima, il 10%. Brava Maria, è vero, è il 10%, dottor Ongaro, quindi? Sì, e quindi sottolineiamo che è veramente poco e stiamo parlando non di un valore ottimale ma di un valore permesso, stiamo in termini di grammi su una dieta media diciamo di 2000 calorie, partendo dal fatto che un grammo di carboidrati ha 4 calorie, stiamo parlando di 50-60 grammi di zuccheri, che non è tanto, e arriviamo a questo molto facilmente anche soltanto mangiando della frutta, quindi tutto quello che è in più rispetto a questo, insomma, è da tenere in considerazione per l'impatto che avrà sul nostro metabolismo e sull'accumulo di peso. Quindi le due considerazioni che dobbiamo fare, dottor Ongaro, è: cerchiamo di ridurre gradualmente lo zucchero che aggiungiamo a cucchiaini, leggiamo le etichette e ricordiamo che lo zucchero è nascosto anche in alimenti che non sono tipicamente proprio dolci. Questo? O che sì, sì, e aggiungerei un'ultima considerazione, che è quella di dire stiamo attenti all'introito inconsapevole di zucchero, che non ci crea nemmeno particolare piacere, di cui non ci accorgiamo, e invece quando decidiamo consapevolmente di mangiarci qualcosa di dolce, godiamocelo senza sensi di colpa. 800 24 00 24. Intanto saluto Stefano Polato che è in linea con noi. Stefano, ciao. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. È una bella sfida, perché tu che ci hai aiutato, insegnato a ridurre i condimenti e a sostituirli anche nella preparazione dei dolci. Io ho preparato la tua crostata con l'olio extravergine d'oliva e ho un successone. Mi invitano ovunque per pur di averla. Riuscirai a fare la stessa cosa con gli zuccheri? Aspettiamo. Stefano, noi siamo pronti, andiamo in cucina con te. Su che cosa punterai per aiutare Fabio a mantenere una soddisfazione, ma a ridurre un pochino il consumo di dolce? Carissima Nicoletta, come al solito mi lego alla natura, perché la natura ci aiuta sempre quando abbiamo qualche difficoltà, quindi possiamo trovare la soluzione ai nostri problemi magari lì, semplicemente attaccata ad un albero o semplicemente dal fruttivendolo, quindi questo è un preambolo rapidissimo per spiegare le alternative allo zucchero che noi cuochi usiamo in cucina. Quindi abbiamo già parlato di miele, sciroppo d'acero, ma anche il succo d'uva, succo di mele, il malto, semplicemente una banana schiacciata, delle questa va bene, tu l'hai suggerita per i muffin al cioccolato, sì, al posto del burro la banana schiacciata, sì, che non solo sono tutti ingredienti che non solo riescono a conferire dolcezza alla nostra preparazione ma ci aiutano anche a dare gusti diversi, profumi, sapori diversi. Prima il dottor Ongaro parlava di stevia, sì. Innanzitutto ha un potere dolcificante quasi 200 volte superiore a quello del normale saccarosio. Sì. E ci aiuta a dare dolcezza, ma non solo, col suo retrogusto di liquirizia dà anche freschezza al nostro piatto. Quindi sono tutte alternative utili sia dal punto di vista del gusto a livello di dolcezza, ma anche per gli aromi che riescono a sprigionare. E non meno importante è il fatto che, a differenza del semplice saccarosio che non riesce a conferire particolari elementi nutritivi per l'organismo, le alternative naturali ci hanno vitamine, fibre, come diceva prima. Tieni conto, Stefano, che Fabio, diglielo pure, che così Stefano Polato sviene. A Fabio non piace cucinare. Ecco. Fabio, di la verità. Non sono un granché in cucina, via. Ma ad esempio due piattini veloci? Qual è la tua tipo? Diciamo pure la verità. Diciamo che la pasta la so cucinare, qualcosa nella padella la faccio andare, però proprio per sopravvivere, diciamo così. E quindi Stefano, ricette molto semplici, rapidi. Tra l'altro Fabio è giovanissimo, ha 25 anni, ha una mamma che cucina molto bene. Diventate ormai, molti di voi mi scrivono, ma la ricetta della torta di nocciole, la ricetta della torta di nocciole della mamma di Fabio, possiamo averla o no? Perché io lancerei una sfida, metterei la ricetta della mamma di Fabio a confronto con una ricetta alleggerita, semplificata, rielaborata da Stefano Polato. Poi la proviamo e vediamo chi vince. Stefano, te la senti? Sì, certo, sempre pronto alle sfide. Fabio, allora mi raccomando, sai già la ricetta tu? Certamente. Ah, la sai, ok. Allora passacelo un po'. Allora, nocciole? Allora, bisogna prendere 300 grammi di nocciole tostate, 300 grammi di zucchero, sì, 3 uova, sì, mezza bustina di lievito, 30 grammi di burro a temperatura ambiente. Sembra quasi che tu la prepari tu, 30 grammi di ambiente e 50 poi? Grammi di amaretti. 50 di amaretti, ok. E mezzo cucchiaio di farina. Sì, proprio se vogliamo essere precisi. Ok, questi sono gli ingredienti. Dottor Ongaro, è svenuto? No, volevo sapere le dosi per quante persone. Per quante persone? Quanta verrà una torta da 6-8 persone? Sì, diciamo di sì, diciamo 6 persone, via. Va bene, comunque Fabio assicura che è buona. Sì, molto. Molto buona. È abbastanza calorica, dottor Ongaro? Insomma, una bella botta. È una torta tradizionale, no? Non c'è niente da dire, quindi è una di quelle cose che se uno mangia ogni tanto va bene, se la mangia molto spesso molto meno. Professor Tirelli, quanto dobbiamo lavorare per smaltire una fetta di questa torta qua? Ma almeno direi un 30 minuti di camminata veloce. 30 minuti di camminata veloce, questo mi piace, che così. Ma che cosa c'è di bello? Che Stefano Polato ci preparerà una torta altrettanto buona, ma con delle astuzie nutrigenomiche, astuzie alla mangia con me, per renderla più Stefano, meno dolce, più salutare o... Dimmi tu. Io ho preso appunti e sto già pensando a trovare delle alternative, soprattutto per lo zucchero, perché insomma 300 grammi di zucchero è una bella quantità, anche per il burro. Allora, senti, intanto Stefano, rispondiamo ad alcuni ascoltatori. Io faccio sempre il ciambellone a casa con l'olio di oliva, ma cosa metto al posto dello zucchero? Nelle torte lievitate a casa, cosa ci mettiamo? Nelle torte lievitate la banana schiacciata è la cosa migliore, perché ci aiuta a... ci aiuta come legare. Come a legare, nello stesso tempo riduciamo anche sia lo zucchero che un pochino il burro. Stiamo perdendo Stefano Polato. Abbiamo forse un minuto per sentire la nostra amica Loredana, che è in linea con noi. Ciao Loredana. Ciao a tutti, finalmente vi risento. Vi sento tutti i giorni, sì. Però vi sento in diretta. Brava. Ecco. Allora senti Loredana, ricordiamo che la tua parola era giro vita, che abbiamo utilizzato proprio perché tu volevi cambiare vita, dare un giro alla tua vita partendo da un assottigliamento del giro vita. Sta andando bene o male? Benino? Allora, sta andando bene, nel senso che tutto ciò che sto traendo dalle ricette le sto mettendo in pratica, mi sta diventando uno stile di vita. Ad essere sincera, non ho perso ancora un chilo, sì, ma non mi interessa, perché penso che nel momento in cui diventerà tutto uno stile di vita... piano piano scatterà anche come quando si nuota, no? Quando rompi il fiato, poi tutto parte e quindi tutto torna, perderò i miei chili, mi sentirò meglio, cammino. Quindi volevo dire a Tirelli che sto camminando anche, perché sì, purtroppo più di 2 volte alla settimana non posso andare in piscina e quindi... passetto dopo passetto il giro vita si smaltisce e si dà un giro alla vita. Grazie Loredana, grazie al dottor Ongaro, al professor Tirelli, a Stefano Polato. Fabio, mi raccomando, va bene. Mangia con me. Per oggi è tutto, grazie a Laura Vanossi in redazione, alla parte tecnica Matteo Comes, e noi ci sentiamo domani. Buona giornata.